24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Riunione dell'Ecofin, essenziale completare la risposta alla crisi dell'Unione Europea. La prima tranche di aiuti alla Grecia entro il 20 marzo, discussioni anche sull'Ungheria e sulla Spagna. Mario Draghi da Parigi, ci sono segni di stabilizzazione nell'Eurozona. La Corte dei Conti in Italia, pressione fiscale verso il 45%, record non soltanto europeo. Televisione, oggi torna Sabina Guzzanti e la satira questa volta sarà sul premier Mario Montinetor. Benvenuti da Paolo Pancieri a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In apertura alla riunione dell'Ecofin di ieri, i ministri delle finanze dell'Unione Europea giudicano essenziale completare la risposta alla crisi dell'Unione Europea, secondo quanto spiegato dal vicepresidente della Commissione, Olli Rehn, responsabile anche di affari economici ed euro. Inoltre, la prima tranche di aiuti alla Grecia deve essere fatta entro il 20 marzo, a causa delle scadenze di Atene in quella data, cioè il rimborso di 14,5 miliardi di euro di titoli. Lo spiega un comunicato che ricorda come il totale degli aiuti arrivi a 130 miliardi di euro fino al 2014, con lo scopo di riportare il debito greco al 120,5% del PIL nel 2020. Olli Rehn al termine dell'Ecofin. Despite the fact that Europe is going through a mild recession, nonostante il fatto che l'Europa stia attraversando una lieve recessione, nelle ultime settimane abbiamo visto crescenti segnali di stabilizzazione e un ritorno di fiducia sui mercati. In questa fase è essenziale completare la risposta alla crisi e su questo versante una pietra miliare è costituita dalle misure di difesa, i firewall. Le discussioni di ieri mi rendono fiducioso che verrà raggiunto un accordo per fine mese sui sistemi di rafforzamento finanziario. La nostra risposta alla crisi oggi è più forte dopo il successo dell'operazione di swap dei titoli greci, che dovrebbe portare il debito del paese sotto il 120% del PIL entro il 2020. Con il secondo programma di aiuti stiamo aiutando la Grecia a riportare i propri conti pubblici su una direzione sostenibile. Inoltre sottolineiamo l'importanza delle riforme economiche che possono agevolare sia la crescita che l'occupazione in Grecia. Si è parlato anche di Ungheria e Spagna. Beda Romano del Sole 24 Ore. Sono due paesi in situazione completamente diversa, paradossalmente. L'Ungheria non ha risanato i conti pubblici negli ultimi anni ed ha un deficit superiore al 3%, nonostante avesse preso l'impegno di ridurre il deficit sotto a questo livello nel 2011. E quindi un mese fa la Commissione ha deciso di applicare una nuova norma del patto di stabilità e di chiedere al Consiglio di congelare 495 milioni di euro di fondi strutturali che dovrebbero essere versati al paese dell'Europa centro-orientale a gennaio dell'anno prossimo. La Spagna in realtà si trova in una situazione diversa. La Spagna deve ridurre il proprio deficit sotto il 3% nel 2013. Non ha mai mancato a questa promessa, l'ha ribadita anche recentemente. La Spagna però ha chiesto maggiori margini di manovra per quanto riguarda il 2012. L'obiettivo preso con la Commissione era di ridurre il deficit al 4,4% nel 2012, aveva rivisto la stima al 5,8%, ha trovato un compromesso con i ministri finanziari dell'Eurogruppo per portare il deficit quest'anno al 5,3%. Mantenendo l'obiettivo del 3% nel 2013. E ieri la cancelliera tedesca Angela Merkel a Roma ha incontrato il presidente del Consiglio Mario Monti e in serata il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. La visita arriva dopo la disdetta del 17 febbraio a causa delle improvvise dimissioni del presidente della Repubblica Federale Tedesca Christian Wulff. Di segni di stabilizzazione nell'Eurozona ha parlato il presidente della BCE, Mario Draghi, da Parigi. Il governatore della BCE sollecita i governi dell'Eurozona ad approfittare dell'attuale fase di stabilizzazione per attuare i loro programmi di riforme strutturali. Mario Draghi usa in un convegno a Parigi parole incoraggianti. Vediamo segni chiari e continui di stabilizzazione nella zona euro, anche se avverte. I livelli di attività sono deboli e bisogna approfittare di questa fase per continuare a progredire. Le esortazioni sono per governi e banche. La BCE dal canto suo, assicura il presidente, ha una determinazione incrollabile ad assicurare la stabilità dei prezzi. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Le borse europee hanno chiuso in attivo. A Milano FTSE MIB ha segnato un più 2,8%, a Parigi più 1,72%, Francoforte più 1,37%, Londra più 1,07%. Seduta positiva per le borse europee, incoraggiate dal miglioramento della fiducia degli investitori tedeschi, misurata dall'indice ZEV, e da buoni dati sulle vendite al dettaglio americane che a febbraio sono aumentate aumentate dell'1,1%. Milano ha terminato le contrattazioni in rialzo del 2%. Sono andate bene le banche, con Unicredit e Intesa San Paolo salite quasi del 4%. Sono tuttavia andate in controtendenza le MPS, che hanno perso lo 0,4% nell'attesa che la fondazione venda fino al 15% delle proprie azioni. Hanno continuato a correre le Pirelli, più 6,8%, sostenute ancora dai dati del 2011 e dalle prospettive per l'anno in corso annunciati la vigilia. Eleonora Micheli da Radio Corp per Radio 24 e Il Sole 24 Ore. Parliamo ora di fisco e degli interventi critici del Garante della Privacy e di Corte dei Conti sulla politica del governo. Da una parte il Garante per la Privacy, dall'altra la magistratura contabile. La politica fiscale del governo Monti è sotto attacco. Il presidente dell'Authority Pizzetti parla di strappi forti allo Stato di diritto, di richieste sempre più massicce di accedere ai dati dei cittadini, di fenomeni di controllo sociale dalle dimensioni spaventose. In particolare punta il dito contro alcuni aspetti del decreto sulle liberalizzazioni del Salva Italia, che suo avviso danno eccessivo potere al Ministero dell'Economia nei controlli anti-evasione. È proprio dei sudditi essere considerati dei potenziali mariuoli. È proprio dello Stato non democratico pensare che i suoi cittadini siano tutti possibili violatori delle leggi. Troppe tasse, invece, dice la magistratura contabile, oltre il 45%, un livello che ha pochi confronti nel mondo. Per il presidente Giampaolino, le manovre di aggiustamento 2011 hanno operato soprattutto sul lato dell'aumento della pressione fiscale e poco sulla riduzione della spesa. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E ora Londra per le novità sullo scandalo intercettazioni. Questa mattina all'alba sono state arrestate 6 persone a Londra e fuori Londra, soprattutto nell'Oxfordshire e in Buckinghamshire. Soprattutto è stata arrestata Rebecca Brooks, che è stato l'amministratore delegato di News International, cioè il braccio inglese delle attività editoriali di Rupert Murdoch, insieme al marito. È un ritorno in carcere, perché la Brooks era stata arrestata già nei mesi scorsi, ma per un paio di giorni, poi era stata rimessa in libertà. In questo caso l'accusa è molto più grave, cioè quella di cercare di inquinare le prove o comunque di interferire con le indagini di Scotland Yard per evitare evidentemente che venga alla luce tutto quanto è stato fatto in questi anni. Viene presentato oggi pomeriggio a Roma il quarto rapporto a cura dello European Migration Network Italia sul tema canali migratori, visti e flussi irregolari. Spettacolo inizia questa sera 1-2-3 Stella, la nuova trasmissione televisiva di Sabina Guzzanti in prima serata sulla 7. Segna il ritorno dell'attrice sul piccolo schermo dopo 9 anni di assenza in seguito alle polemiche su Riot. 8 puntate tra comicità e talk di approfondimento in cui la Guzzanti riproporrà la sua satira politica, ma questa volta nel mirino ci sarà il premier Mario Monti, rinominato Montinator. Sentiamo la Guzzanti in versione seria. Per tutti la soluzione ideale sarebbe che l'Europa diventasse davvero un'Europa politica e Monti un po' più vicino agli Stati Uniti e più lontano all'idea della Merkel di allearsi più con all'asse sino a Russia, e quindi diciamo che sposta un po' il peso dall'altra parte. Però entrambe le soluzioni non mi sembrano sufficientemente radicali come dovrebbero essere per fare poi alla fine una vita che secondo me non ci piacerà. Secondo me invece si potrebbero fare altre cose, pensare altre cose, anche considerato che comunque sono discorsi veramente complessi questi. Adesso non voglio attaccare un bottone, però insomma, considerato il problema delle risorse, il problema dell'energia, probabilmente il lavoro che cambia, eccetera, andrebbe ripensato tutto in modo un pochino più radicale, perché studiando quello che pensano insomma alcuni economisti di diversi pareri, mi pare che queste soluzioni siano comunque provvisorie, che comunque il problema si sposta soltanto un pochino più avanti. Un film che mescola verità e finzione, passato e presente, storia dell'Italia e anche dell'Europa. È la vicenda di Pietro, aspirante attore, arrivato a Roma dalla Sicilia, affitta una casa che si rivelerà abitata dai gentili fantasmi di una compagnia teatrale degli anni 40. È magnifica presenza del regista di origine turca Ferzan Ospetek, lo ha intervistato Marta Cagnola. Complessa, poi anche alla fine diventa anche molto semplice. Due mondi così lontani, proprio l'epoca, sono vivi e morti che si incontrano. Questo è stato all'inizio molto complicato, sembrava, poi invece si è risolto bene. Hai a che fare con la storia dell'Europa inevitabilmente e anche la storia del mestiere, perché loro sono attori. Hai deciso di recuperare la memoria in questo doppio binario? Sì, perché poi oggi se tu a un ragazzo di 15 anni chiedi della storia dell'Italia, della storia di quello che è successo nella Seconda Guerra Mondiale, o l'unità d'Italia, la bandiera, l'educazione civica, per esempio, non sanno niente di niente. Invece la memoria è molto importante. Amore per la storia dell'Italia, ma anche un tocco di Turchia, inevitabile e molto bello, tra l'altro con un attore che noi non conoscevamo, che è strepitoso, ma che ci hai detto essere una vera star. Cem Yılmaz, sì, una grande star in Turchia, ma una star di livelli veramente mega. Ci sono varie musiche, insomma un po' di Turchia me la porto sempre. Ed è tutto per questa edizione di 24 ore in Europa. Un saluto da Paolo Panceri. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.